Per tutta quella settimana, Giada Lucente rimase nella sua stanza, uscendo solo per occuparsi di Promessa Costante. Si chiedeva cosa fare, mentre leggeva e rileggeva lo stesso brano nella prima lettera ai Corinzi. E ora praticate fede, speranza e carità, ma la più grande di queste tre è la carità. La sera precedente l'ottavo giorno della quindicina della piccola neve, quando le donne dovevano tornare dal loro ritiro, prese la sua decisione. Sognò che stava giocando a badminton a scuola, solo che questa volta una folla lo osservava. Erano presenti tutti, persino la Hanlin e suo padre, in una cornice d'argento. Poi, stranamente, il gioco cambiò. Il volano diventò un uccello, la rete un muro degli spiriti, la racchetta una pietra che lei scagliò contro l'uccello mancandolo. La folla circondò il campo, ciascuno aveva un sasso, l'uccello era scomparso e al suo posto c'era sua madre. E nella mano di Giada Lucente un altro sasso. Ora tutti urlavano: tu, tu, tu! L'una di primavera sorrideva aprendo le braccia, anche lei si unì al coro: tu, tu, tu! Giada Lucente ubbidì e sollevò il sasso. Sua madre cadde e lei si svegliò. Aveva le guance bagnate di lacrime. Il sogno era forse stato un messaggio del Signore o qualcos'altro? Non lo sapeva. Sapeva soltanto che non poteva accusare sua madre, che non le avrebbe mai detto quel che lei ora sapeva. L'ultimo giorno della quindicina della grande neve fu più freddo del solito, cosicché i vasi in cui fiorivano i crisantemi gialli si spaccarono e l'acqua piovana che si era raccolta in un'orma del giardino gelò. Come aveva fatto durante tutta la settimana, l'una di primavera lavorava a candire le castagne e lo zenzero per i doni di Capodanno, mentre le altre donne stavano sedute intorno al telaio da ricamo, affrettandosi a completare la tovaglia dell'altare, chiacchierando delle possibili visite per la festa, dei successi di chi si era trasferito nelle città sulla costa, di chi rimpiangevano e di chi erano contente di potersi sbarazzare. Soltanto Virtù Splendente e Vista Brillante erano assenti, occupate a preparare i resoconti per il nuovo anno e le buste rosse per i membri della famiglia. Al tavolo di Mahjong, nell'angolo, Promessa Costante e Giada Lucente decoravano il piccolo albero di Natale che 20 d'agosto aveva mandato, insieme con un elaborato presepio fatto in Francia. Di tanto in tanto sentiva la voce acuta del bambino levarsi sopra la confusione generale. Mucca! Capra! Giada Lucente gli insegnava l'inglese. Vergine Maria! Lo sguardo di Luna di Primavera correva da un gruppo all'altro, assaporando l'atmosfera di contentezza che sembrava emanare calore come il braciere nel centro della stanza, accanto alla sedia vuota della matriarca. Era forse perché la festa era così vicina, perché ciascuna donna, persino Giada Lucente, trovava tanto piacere nel suo compito. La scena era così familiare, così simile a quella della sua infanzia, eppure in qualche modo diversa. Imbarazzata per la propria intrusione, studiò le mani aggraziate di Alba Luminosa, il volto sereno della terza prozia e l'aria critica della seconda prozia. Perché si sforzava tanto di imprimersi ogni particolare nella memoria? I suoi occhi indugiarono su sua madre, che si era pettinata le ciocche di capelli sulle tempie in modo che somigliassero ad ali di colomba. Di colpo Luna di Primavera capì che presto se ne sarebbe andata. Nessuno vi aveva minimamente accennato, ma meno si parlava, più profonda era la tensione. Era tempo di ritirarsi senza uno scontro, in modo che nessuno rimpiangesse parole che era meglio non dire, che nessuno perdesse la faccia. Non avrebbe detto nulla fin dopo le festività, poi avrebbe adotto come pretesto la scuola del bambino. Avrebbe accettato la proposta che 20 d'agosto ripeteva, in forme diverse, in ogni sua lettera. Nell'ultima le chiedeva di non considerare la casa come un dono, ma come un primo passo per saldare il suo debito verso il clan dei Chang. Accettare la sua proposta significava accettarlo come corteggiatore di Giada Lucente. Ma dopo quegli ultimi mesi trascorsi con sua figlia, aveva capito che non avrebbe acconsentito mai a un matrimonio preordinato da altri. I tempi erano cambiati e i giovani moderni decidevano con la propria testa. Come accadeva nei clan di tutta la Cina, Gli anziani si sarebbero dovuti piegare alla scelta di Giada Lucente, qualunque fosse stata. Decise che una volta stabilitasi a Shanghai avrebbe chiesto a talento coraggioso di aiutarla a trovare un posto come insegnante. Lui non avrebbe frainteso il motivo del suo ritorno nella città dove un tempo erano stati amanti, ne era sicura. Benché si fosse infatti aspettato qualcosa di diverso la prima sera del suo ritorno, niente di quanto aveva detto o fatto in seguito aveva lasciato trapelare che fossero ormai niente più che zio e nipote. Forse persino quelle ore erano state plasmate, per lui come per lei, più dal ricordo che dal desiderio. La sua decisione era stata l'unica possibile. L'aver sbagliato una volta era umano. Egli era stato il suo maestro, il suo amico di sempre, il suo secondo amore, ma ricadere nell'errore sarebbe stato indegno, grossolano e privo di dignità. Due esiliati potevano scordarsi il resto del mondo, ma non i membri di un clan. Ora anche lui si era arreso, poiché ancor prima di separarsi entrambi avevano capito che quella sarebbe stata l'unica soluzione possibile. Doveva esserlo, lo era. Durante le sue visite più recenti a Suzhou, quando la conversazione cadeva sulla politica, egli parlava sempre più del periodo a cavallo del secolo. Nel ricordare, si soffermava sulla bellezza di una singola gemma, di un'alba. Benché vivesse ancora in città e solo di tanto in tanto facesse visita ai cortili, sembrava distante da entrambi. Ricordò che un tempo le aveva parlato di come sognava trascorrere i suoi ultimi anni di vita, a vagare solitario fra le brume delle montagne. Non si era fatto crescere una barba fluente, eppure le sembrava che avesse già cominciato a perdersi fra le colline create dalla sua mente. L'uomo che lei aveva conosciuto era scomparso. Il suo lavoro era terminato. L'una di primavera si unì alle altre donne, sedendosi accanto a neve fragrante. 28. Il corteggiamento. Una tigre aggredì una volpe e stava per divorarla quando questa urlò con accenti regali: Fa attenzione, amica mia! Non capisci che gli dèi mi hanno nominato re delle bestie? Se mi strapperai anche soltanto un pelo, sarai punita. La tigre uscì in un ruggito di scherno. Ah, non potevi dirla più grossa, perché sono io il re delle bestie. Allora seguimi nei boschi e vedrai se tutti gli animali non fuggono quando mi vedono. La tigre acconsentì e seguì la volpe. Quando vide coi propri occhi che tutti gli animali fuggivano alla vista di quel debole animale, chinò il capo e sgusciò via nella boscaglia. La volpe era così sicura di sé che continuò per la sua strada, senza nemmeno voltarsi a guardare. Racconto cinese. Era il crepuscolo quando i viaggiatori arrivarono al numero 42 di Rue Flaubert. La casa di mattoni rossi a due piani sembrava rilucere al sole morente, assomigliando, decise l'una di primavera, a un gigantesco baule nuziale. L'interno confermò la sua impressione. La loro nuova casa era un dono dell'amore, contenente tutto quel che 20 d'agosto aveva immaginato si potesse desiderare. Che fosse volgare, stipata, che le desse la sensazione di non poter posare i suoi occhi da nessuna parte, non importava. È bellissima, disse con genuina commozione. 20 d'agosto era raggiante di piacere, più simile allo scolaro che ricordava lei che all'abile uomo d'affari che era diventato. Guarda, zia, hai mai visto un telefono più bello? No, rispose per lei, promessa costante, sollevandole e urlando: Vei, vei, vei! Giada Lucente mise rapidamente fine al gioco, ma il bambino, nella sua vivacità, ricominciò a darsi da fare, tastando felice i drappi di velluto, la tappezzeria a fiori e le lampade Tiffany. E guarda, zia, libri e ancora libri. 20 d'agosto aprì la porta a due battenti che portava nella biblioteca. Ne hai mai letto uno? Chiese Giada Lucente, prendendo a caso un grosso volume e poi un altro. La tua domanda, sorella Margaret, dimostra che non hai la minima idea di quel che fa un imprenditore. Non lo sai? Il tempo è denaro e il denaro è al centro del mio lavoro. Giada Lucente lo ignorò e sedette a leggere. Questa è la mia sedia? Chiese il bambino, indicando uno sgabello su cui erano state ricamate a piccolo punto delle scene buffe di animali. È tuo se lo vuoi, disse 20 d'agosto con un gesto magnanimo. Se lo desideri, zio, te ne comprerò uno per ciascuna stanza. No, protestò l'una di primavera. Abbiamo già abbastanza sedie. Fra sé contò quelle del salotto. Sette a un posto, due a due posti e una che aveva l'aria di ospitare una dozzina di persone. Zia, cosa c'è che non va? Chiese 20 d'agosto. Tutto ciò che vedi è una copia perfetta di quel che troveresti a Buckingham Palace. Sarà? Ma stipano tutto quanto in una stanza? Si domandò lei. Oh, tutto è bello qui, disse lei sorridendo. Che cosa ti piace di più, zia? Chiese lui, sollevando promessa costante e mettendoselo in spalla in modo che il bambino potesse dare un buffetto sul naso della testa di cinghiale appesa alla parete. Ti risponderò 20 d'agosto soltanto se mi prometti di non procurarmene un altro. Lui annuì, ridendo. Te lo prometto, ma devi dirmelo. L'una di primavera camminò lentamente per il salotto con la fronte corrugata, come se dovesse prendere un'importante decisione. 20 d'agosto e promessa costante la seguirono a un passo di distanza. Molti oggetti erano veramente belli, sebbene più confacenti al gusto di Porpor che al suo. Che poteva dire? Il giro stava giungendo alla fine quando, alla porta della biblioteca, vide quel che cercava, il mappamondo. Era proprio come quello nello studio della casa di Bablingwell Road. Indicò quello. Il mappamondo? Chiese lui. Lei annuì energicamente e lui sospirò. Oh, zia, se potessi sarei ben felice di darti il mondo. Oh, non ne dubito affatto, 20 d'agosto, sorrise. Sei molto gentile, molto, molto gentile. Il soggiorno a Shanghai cominciò così sotto buoni auspici, e nel giro di un mese ciascun membro della famiglia seppe già dal mattino quel che avrebbe fatto durante il giorno. L'una di primavera e promessa costante andavano insieme alla scuola materna dove lei insegnava ai bambini di quinta elementare e lui frequentava la prima. Già da lucente lavorava per le pubblicazioni della Nuova Cina, un progetto di traduzione per talento coraggioso, in attesa di iscriversi all'Università di Shanghai in autunno. Subito dopo il ritorno in città era andata alla missione, sperando che Miss Clayton le proponesse qualche incarico più impegnativo, ma la missionaria era partita per una delle sue solite visite all'interno e in breve tempo la ragazza cominciò a occuparsi delle questioni politiche che erano al centro delle conversazioni in casa editrice. La sera, 20 d'agosto, che abitava nella stanza sul retro della MS & Company, senza nessuna comodità e senza servitù, a eccezione dell'autista e delle guardie del corpo russe, li raggiungeva per la cena. La domenica anche Talento Coraggioso cenava con loro, evitando deliberatamente argomenti di conversazione seri e preferendo giocare col bambino. Già da lucente, sii gentile, lascia che mi goda il mio meritato riposo. Diceva quando la ragazza gli chiedeva la sua opinione sugli ultimi eventi. Ogni qualvolta Talento Nobile veniva in città, si univa alla compagnia. Il soldato sedeva rigidamente sulla sua sedia, parlando soltanto quando gli si rivolgevano dei quesiti e manifestando la sua amarezza. Il paese era diviso in cricche. I riformatori di un tempo, come Kang Youwei, avevano appoggiato il ritorno al potere di breve durata dei Manciù e la Cina era entrata in guerra. Quando già da lucente cercava di controbattere il suo pessimismo accennando ai 14 punti per la pace del presidente Wilson, lui si chiudeva nel silenzio. La vita era stata più generosa con le donne del clan, rifletteva l'una di primavera. Loro almeno avevano una casa e molti diversivi. Il giovane zio non aveva né l'una né gli altri. Fin dall'inizio, come era prevedibile, 20 d'agosto sviluppò un profondo interesse per il cristianesimo. Già da lucente, benché diffidente, non poteva rifiutare di dargli lezioni sulla Bibbia e, quando il suo allievo si rivelò estremamente diligente, disse a sua madre una frase che ripeteva spesso Miss Clayton: «Le vie del Signore sono infinite». L'una di primavera assisteva al corteggiamento di sua figlia con uno stato d'animo misto di ansia e di divertimento. Che strana coppia erano. Nemmeno il più cieco dei mediatori avrebbe arrischiato una simile unione. Lui era un panda spensierato, lei una pantera, tutto all'infuori che spensierata. Eppure, quando lui era presente, l'una di primavera si sentiva più a suo agio con la figlia e ciò la preoccupava. Spesso, mentre correggeva i compiti, durante quelle placide sere in Rue Flaubert, Alzava gli occhi e vedeva Venti d'Agosto osservare la ragazza che scriveva furiosamente in un blocco d'appunti. Talvolta lui si protendeva verso di lei e le scostava una ciocca di capelli dalla fronte. Il gesto era così naturale, quasi solenne, che la madre non poteva risentirsi. 29. Il dragone. All'epoca in cui gli stati combattevano, il poeta statista Chu Yuan fu vittima di false accuse da parte di suoi rivali a corte e perse i favori del re. Messo al bando, vagò per la campagna, raccogliendo leggende e tracciando tragici appelli, finché un giorno, completata la sua più bella poesia, si affogò nel fiume Mi Lo. Il re, resosi conto della sincerità del suo ex ministro e dei suoi errori, mandò una compagnia a cercare i resti di Chu Yuan. Ma il fiume non volle rendere il cadavere e così i barcaioli gettarono in acqua del riso per placare i diavoli delle profondità e per nutrire lo spirito del poeta virtuoso nell'altro mondo. Da allora in poi, il quinto giorno della quinta luna di ogni anno, i cinesi, che amano i poeti e onorano i nobili funzionari, si affollano sulle rive dei fiumi e dei laghi per ricordare la scomparsa di Chu Yuan. Storia cinese. Annoiato dai discorsi politici che sembravano assorbire gli altri, Venti d'Agosto prese la bottiglia di champagne dal cameriere e si alzò per servire personalmente i suoi ospiti. Basta, basta! Protestò Talento Coraggioso, coprendo il suo calice di cristallo. Ah, sciocchezze! Fece Venti d'Agosto, ridendo, scostando la mano dell'uomo di lettere e versando altro vino. Ancora, ancora! Urlò il bambino, promessa costante lì accanto. Assolutamente no! L'una di primavera si impadronì del suo bicchiere e lo porse al domestico più vicino, togliendo una briciola dai pantaloni del bambino che protestava. Ora sì, bravo piccolo fratello, racconta a tuo nipote quel che hai imparato a scuola. 20 d'agosto sospirò. Se la conversazione non riguardava le lezioni di geografia del bambino, cadeva sui nani marrone che mandavano truppe in Mongolia, oppure sugli studenti cinesi che tornavano dal Giappone per protesta. E quella doveva essere una festa. Quando versò il vino già da lucente e a talento nobile, quelli non lo notarono nemmeno, anche se il soldato, secondo la tradizione, vuotò ad un fiato il suo bicchiere e se lo fece riempire di nuovo. Venti d'agosto preferiva talento nobile quando non beveva. Se era sobrio non parlava quasi mai. Oggi stava raccontando la storia della sua vita già da lucente, la quale la trovava tanto affascinante da dimenticarsi di non bere lo champagne. Ora che i signori della guerra di Kwantung avevano nuovamente cacciato Sun da Canton e che egli viveva a Shanghai, talento nobile si sarebbe fatto vedere più spesso. Lui e Giada Lucente lavoravano già insieme nella casa editrice come collaboratori di pubblicazioni in sostegno della Repubblica. Devo tenerlo lontano da lei, devo tenerla lontana da lui. Borbottava 20 d'agosto fra sé, imitando lo stile di Giada Lucente. Dopo aver riempito anche il proprio bicchiere, buttò la bottiglia al cameriere e sedette corrucciato, i gomiti sul tavolo, il mento fra le mani. Non c'era una nuvola in cielo. Si poteva vedere chiaramente il fiume, ma nessuno vi badava. Forse quando fossero cominciate le corse avrebbero ricordato perché li aveva invitati. Il padiglione di tela che li proteggeva dal sole e l'affitto del tetto del magazzino su cui erano appollaiati gli erano costati come un'intera casa. Trangugiò il suo champagne. Le folle dei giorni di festa si assiepavano lungo il Suiciao. Sulle rive svolazzavano abbaglianti bandiere rosse segnando il corso della regata. Qua e là, un'imbarcazione lunga e stretta come la vita di un uomo, con la testa di drago al vento e la coda sporgente a poppa, fremeva sull'acqua come preparandosi alla corsa. Su alcune sedevano fino a 100 uomini pronti a scattare al suono del gong, gli occhi fissi sulle maniche fluenti del generale a prua. A un suo cenno, avrebbero cominciato a remare accompagnati dal rullo dei grossi tamburi. Improvvisamente risuonò il gong e un urlo si levò dalla folla. Altrettanto improvvisamente gli ospiti di 20 d'agosto, persino la missionaria e il suo mentore, si alzarono in piedi e presero ad acclamare. Con suo stupore, Talento Coraggioso issò il bambino sul tavolo e quando l'una di primavera obiettò, l'uomo di lettere mise ridendo un braccio protettivo intorno alla piccola scimmia. I dragoni erano partiti. 20 d'agosto fece cenno al cameriere di portare un'altra bottiglia di champagne. Oh lo, oh lo lo lo! Per tutto il pomeriggio il richiamo dei vogatori si levò sopra il clangore dei cembali e il rimbombo dei tamburi, lo scoppiettare dei petardi e le acclamazioni degli spettatori. Le barche filavano sull'acqua, schizzando da bandiera a bandiera, i generali tutti tesi nello sforzo di vincere. Ogni tanto uno di loro, splendido nella sua tenuta dai colori sgargianti, viola, giallo o verde, cadeva fuori bordo. Galleggiando come un tappo di sughero, scuoteva la testa e sorridendo, agitando le braccia, raggiungeva la riva mentre un altro prendeva il suo posto. Per tutto il pomeriggio, Promessa Costante contò sulle dita i generali caduti in acqua e sostituiti, mentre gli altri mangiavano e bevevano e ridevano come se vivessero alla corte sontuosa di Yang Guifei, le cui abitudini dispendiose avevano fatto crollare in passato un impero. Quando fu ora di andarsene, a uno gli ospiti si alzarono e, secondo la tradizione, brindarono con 20 d'agosto. Con aria solenne, egli fece tintinnare il suo bicchiere a turno con quello di ciascun ospite, dicendo: «Quella di oggi è stata la più memorabile gara di dragoni in tutti e 22 i secoli, perché voi avete onorato la mia indegna tavola con la vostra illustre presenza». Quando i Wu e 20 d'agosto arrivarono nella casa di Rue Flaubert, la Ma portò subito a letto Promessa Costante. Anche Luna di Primavera era stanca e presto si congedò. «Madre, sono troppo eccitata per dormire. Posso restare ancora un poco?» domandò Giada Lucente con uno dei suoi rari sorrisi. Dopo un istante di esitazione, Luna di Primavera annuì: «Non troppo, però. Te lo prometto!» Quando furono soli in salotto, 20 d'agosto sedette sullo sgabello della pianola, suonando qualche nota, meravigliato dalla vista di Giada Lucente che, euforica per il vino, danzava intorno canticchiando fra sé la melodia di Ginny with a Light Brown Hair. Sorrise, pensando che non l'aveva mai vista danzare prima d'allora, desiderando ma non osando prenderla fra le braccia. «Deve essere stato lo champagne», si disse, e per poco non rise. «Lode a Dio per lo champagne!» Sedendosi accanto a lui, la ragazza disse: «Non mi sono mai divertita tanto. Credo che non mi capiterà mai più un'esperienza simile». «Oh, io farò tutto il possibile perché ciò succeda ancora, ancora e ancora», dichiarò lui, battendo un tasto ogni volta per sottolineare le parole. «Shh», fece Giada Lucente appoggiandosi a lui. «Shh», ripeté, avvicinandosi ancora di più. Era sicuro che non si profumasse, eppure. «Che cosa c'è?» chiese lei, piegando la testa di lato. Lui si limitò a liberarle la fronte dalla ciocca di capelli, incapace di parlare. Le mani di lei ondeggiavano sopra i tasti del pianoforte come se cercasse una melodia da suonare. «Come filavano bene i dragoni! È stato stupendo!» chiuse gli occhi e gli appoggiò la testa sulla spalla. «Amico mio!» «Amico caro? Domani avrebbe comprato un'intera cantina. Amico carissimo, vuoi sposarmi?» Non aspettava una risposta, ma gli piaceva dire quelle parole familiari, se le era ripetute spesso negli ultimi mesi. «Shh, sto sognando!» fece lei con gli occhi ancora chiusi. Lui non osava muoversi, timoroso di rompere l'incantesimo. Poi sussurrò: «Che stai pensando, sorellina? Lascia che io realizzi il tuo sogno». Lei sembrò prendere in considerazione l'idea, poi disse con voce languida: «Sogno di veleggiare su un dragone d'oro. Un giorno, te lo prometto, un giorno!» Bruscamente lei si raddrizzò: «Voglio farlo ora!» «Ora! Ora!» Si alzò e lo prese per mano, tirandolo verso la porta. «Ma che cosa dirà tua madre?» «Non lo saprà mai!» Esitò, ma al piano di sopra tutto era silenzioso e lei lo teneva per mano. Corsero fuori. «Niente macchina, una carrozza», disse la ragazza. «Shh!» fece lui, scivolando furtivo con lei lungo la strada. Ne trovarono una solo all'isolato vicino. Lui l'aiutò a salire e disse al cocchiere di portarli al fiume. Ma quando le sedette accanto, lei scosse la testa e indicò il sedile di fronte: «Fa troppo caldo!» Dopo averla accontentata, si fece prestare il ventaglio dal guidatore e l'agitò verso di lei. Giada Lucente era ammaliante come uno spirito di volpe nella sua tunica di cotone giallo pallido, le braccia abbandonate sul sedile, la testa rivolta verso il cielo. Lui agitava ritmicamente il ventaglio. «Che cosa pensi, Giada Lucente?» alla neve e al vento gelido del nord. Non mi chiedi cosa penso io? Shh, fa troppo caldo per parlare. Te lo dirò lo stesso. Smise di agitare il ventaglio e si chinò verso di lei. Giada Lucente, vuoi sposarmi? Lei sorrise. Giunti al fiume, lui l'aiutò premurosamente a salire su uno dei dragoni che ondeggiavano contro il molo finché fu al sicuro prona sul fondo. Sedersi significava correre il rischio di rovesciare l'esile imbarcazione. Lui entrò dopo di lei, sdraiandosi in modo che le loro teste fossero vicine, le mani sotto il mento, i nasi che quasi si toccavano. Vuoi sposarmi? Chiese di nuovo. Forse. Giada Lucente chiuse gli occhi. Così rimasero fino all'alba. Mentre lei dormiva, lui la vegliava, sognando un'altra corsa di dragoni quando avrebbe tenuto suo figlio fra le braccia. 30. A cavallo della tigre. Se lungo la strada ti afferrassi per la manica, non odiarmi. È difficile far morire le vecchie abitudini. Dal libro dei canti. Vi furono diverse passeggiate in carrozza dopo quella, ma la magia della notte della festa non tornò più. La città soffriva per il caldo inesorabile, il torpore era come una coltre soffocante, le mosche ronzavano freneticamente sopra gli escrementi. Un giorno dopo l'altro la gente diceva che il caldo aveva ormai raggiunto il culmine e che l'indomani si sarebbe attenuato, ma si sbagliava. Nelle strade di terra battuta, bruciata dal sole, i poveri morivano. I loro corpi venivano buttati sui carri, insieme a quelli di coloro che non erano ancora morti, ma erano troppo deboli per sopravvivere alla disperazione che gli si parava davanti come un tunnel interminabile. La domenica in cui Giada Lucente finalmente consentì a 20 d'agosto di accompagnarla da Miss Clayton a prendere il tè, la loro carrozza passò accanto a uno di questi carri. Subito lei congiunse le mani in preghiera. Subito lui maledì il cocchiere per aver scelto quella strada e non un'altra. Qualche minuto dopo, seduto fra le due donne con la sua tazza in mano, egli soffocava la sua delusione e annuiva gentilmente a Giada Lucente, mentre lei sfogava la sua collera per lo spettacolo che aveva appena visto. Inutile fu ogni sforzo di cambiare argomento. Che cosa contava la sua sofferenza in confronto a quella dei poveri, degli orfani, dei malati? Quando venne il momento di andarsene, Miss Clayton li accompagnò nel suo studio. Sul tavolino accanto alla scrivania erano schierate fotografie ingiallite, ciascuna in una cornice dorata, e ogni volto aveva gli occhi pallidi e intensi come quelli della missionaria. «La sua famiglia?» chiese lui. Miss Clayton annuì, cogliendo l'occasione per presentare ciascun membro. Non avrebbe mai immaginato che una persona con tanti parenti, anche se straniera, potesse attraversare mezzo mondo per vivere in mezzo ad estranei. Miss Clayton aveva persino donato alla scuola la sua parte di eredità che la sorella le aveva mandato dopo la morte dei genitori. Mamma e papà avrebbero approvato, disse con dolcezza, quando lui non poté nascondere il suo stupore. Loro avevano già la fede in Dio. Il denaro sarà più utile qui in Cina. Com'era triste, rifletté lui, avere un clan così grande eppure nemmeno un parente vicino. Ma ritornando a casa non poté soffocare il pensiero che, anche se una aveva la pelle fine come porcellana e l'altra ruvida come buccia d'arancia, la bella, delicata ragazza e la sua insegnante più cara erano dello stesso stampo. Come la missionaria, Giada Lucente avrebbe dedicato la sua vita a estranei. 20 d'agosto, non mi ascolti! Lo accusò lei. Stava guardando uno dei mendicanti chiamati crisantemi perché i loro abiti erano tutti a brandelli. Non fa nessuna differenza. Le tue prediche sono sempre uguali. Lei gli lanciò un'occhiataccia. Ti prego, non litighiamo di nuovo. Cercò di prenderle una mano. Lei la ritirò. Sposami, la supplicò. 20 d'agosto, c'è tanto dolore intorno a noi. Ma tu mi dai solo piacere. Lei scosse la testa. Ora ti prendi ancora gioco di me. Lo hai sempre fatto da quando eravamo bambini. Ma ora no. Solo che non voglio vivere come se gli scopi più nobili. E si interruppe, poi proseguì. Da quando è tornata Miss Clayton, non pensi che alle opere buone, mendicanti e orfani, ci sono cose altrettanto importanti. Per me sono le sole che contino. Sedette accanto a lei, mormorando. Giada Lucente, tu sei tutto per me. Ecco, ci risiamo. Ti stai prendendo gioco di me. No, non di te, di noi. Il destino ci ha messi entrambi sulla stessa tigre. Non possiamo cavalcarle, non possiamo scendere. Io che desidero te sopra ogni altra cosa, non potrò mai essere degno della tua stima. E forse, se tu mi rassomigliassi di più, ti troverei meno desiderabile. Lei non lo contraddisse e per un lungo tratto si sentirono solo gli zoccoli del cavallo sull'acciottolato. Un rumore così sordo, pensò lui, domandandosi perché mai le avesse detto la verità. Non serviva a niente, era sempre così. Non ti sforzerai nemmeno di vedere le cose dal mio punto di vista, 20 d'agosto? Domandò lei. Lui annuì. Verrai con me un giorno alla Porta della Speranza? Certo. Gli prese la mano. E darai il tuo contributo alla nostra causa? Certo.